Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Siamo qua, parleremo di paradossi, di gente che mangia, di vita dura e di rifiuti letterari.